padrone so il patto. Mia figlia, mia madre, scoperta è la trama, la perdita è qua, la perdita è qua. Perdono, perdono. Volo non sperarlo. Perdono, perdono. Volo non votarlo. Perdono. No. Come on.